E improvvisamente mi ricordo che con la storia della verità io ho chiuso. E realizzo che le vie della fantasia sono infinite. E quindi, come se niente fosse, attacco con il vigile urbano di fronte a me una manfrina che non so nemmeno da dove arrivi, ma parte. E appena parte, non è più una manfrina, è la verità. La sto raccontando e ci credo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia, sono raffreddato e sono qui. Oggi ho pranzato con mia nonna. Abbiamo iniziato a mezzogiorno e a mezzogiorno e mezza avevamo già finito. I miei sono via per qualche giorno a non so quali mercatini di Natale, quindi io e mia sorella ci diamo il cambio per stare un po' con lei, di giorno e di notte. Ho riscaldato nel microonde le lasagne che mia mamma aveva preparato e surgelato, solo che diventavano bollenti in cima e rimanevano congelate sotto. Mia nonna ha provato a dirmi che lei avrebbe infilato tutto nel forno, ma lo ha giusto accennato perché sa che a queste cose di microonde di oggi forse funzionano meglio e bisogna non dare retta. Mia nonna è una persona di poche parole. Sembra che le conti prima di dirle. Quando è da sola però, cioè quando è da sola con qualcuno, con me ad esempio, con mia sorella o con l'altro nipote, inizia a parlare e non si ferma più. Oggi non so nemmeno come, però a un certo punto ha attaccato a raccontarmi di Claudio, il figlio di una sua cugina. Claudio ha appena ottenuto l'annullamento dopo che il matrimonio non era stato consumato. Lei ha cominciato un lungo excursus sulla sua ex moglie, sull'ex moglie di lui, che lei era un medico e lui si sentiva un po' in difetto perché è solo un geometra. E mi ha detto che dopo essersi bisticciati, lui è tornato a casa dei suoi con la macchina carica di regali che i parenti gli avevano fatto per le nozze, mentre lei invece si era tenuta la sua parte di regali. Me l'aveva già raccontata questa storia, più volte. E io le ho detto che lo sapevo già, le ho addirittura ricordato in anticipo, prima che lei me lo dicesse, che addirittura la mamma di Claudio, quando l'ho vista tornare a casa, con tutta la macchina carica, per il colpo è svenuta. Lei mi ha detto, ah lo sai Gianne? E poi ha finito le sue lasagne. Poi abbiamo parlato dei vari parenti, che non vede più perché non ci sono più rapporti o perché sono morti. Lo zio Pipic, la zia Lena, il nonno Giovanni, la nonna Maria, il Luciano, Gianfranco, la Gaudenzia, lo zio Biel e la zia Rosa. Ovviamente so chi sono loro, conosco tutte le vite, perché lei me l'ha già raccontata più di una volta. Però me ne sono rimasto zitto. Mi sono mangiato le mie lasagne senza per forza dire «Sì, nonna, lo so, sì, ma certo, me l'hai già raccontato». Ho capito che il racconto era come un mantra, cioè come un modo per scongiurare la morte, forse la vita, non lo so. Come dei piccoli romanzi familiari che ormai sono più forti, quasi nel racconto che non nella memoria degli avvenimenti che sono realmente accaduti. Ho pensato che mia nonna ne avesse bisogno di quella roba lì. E però ho pensato che in fondo ne ho bisogno pure io, perché anche io faccio la stessa cosa. Cioè, anche io ripeto gli stessi aneddoti, le stesse storie che mi piacciono. Quelle che mi fanno ridere oppure quelle che mi fanno piangere. Ci sono amici che mi vogliono pure bene, però mi detestano, perché racconto magari la stessa storia per la quarta volta e loro fanno finta di niente. E non è solo arteriosclerosi, è che le storie sono un modo per sentirsi vivi. Ecco perché non riesco a fare a meno di raccontarvi la mia tutti i giorni. Ed ecco perché ogni tanto, lo ammetto, mi piacerebbe sentire un po' anche le vostre. Perché qualcuno ha cominciato a farlo, qualcuno ha cominciato a mandarmi dei piccoli racconti della propria vita, più che altro dei piccoli episodi abitualmente, oppure delle storie di biografia personale o di persone che hanno vicino e che hanno conosciuto. E visto che a me piace molto leggere queste storie, e ogni tanto l'ho già fatto, l'ho già letto anche in diretta, se avete voglia di raccontarle, se avete voglia di scrivere un mantra oltre che di raccontarlo come fa mia nonna, io sono qui, @radio24.it. Questo è l'indirizzo per mandarmi queste piccole storie. Ripeto, storie che vi sono accadute, storie che avete sentito, che vi hanno già raccontato. Ho semplicemente voglia di sentirmela raccontare e di leggerle. Io sono qui, @radio24.it. Ieri, io oggi non l'ho detto a pranzo a mia nonna, perché certe cose comunque alla nonna non si dicono. Però ieri ho fatto una cosa che non va fatta. Sto per raccontarvela, però lo dico già, è una cosa che non va fatta, è un po' un disclaimer, come mi raccomando, non fate le cose che state vedendo in televisione perché quello che lo fa è uno stunt. Ecco, è la stessa cosa, non fatela, perché non si fa. Forse è illegale addirittura. Ho pedinato una persona. Chi segue questo programma sa di chi sto parlando, sapete a che punto della storia siamo. Siamo che sto cercando di capire chi è Italo e che cosa ha da nascondere, ok? Ieri ho pedinato Italo. Anzi, in realtà ne ho fatte due di cose che non vanno fatte. La prima è pedinare una persona. La seconda è inventarsi una storia per sviare una pattuglia dei vigili urbani che vi ferma. ognuno di noi ha nel proprio repertorio almeno due buoni esempi di palle che si è inventato davanti a un carabiniere o davanti a un poliziotto stradale della strada o davanti alla guardia di finanza o davanti a un vigile, pur di dire: guardi, davvero non mi faccia il verbale, le spiego perché, e via con la storia. Tutti ce l'hanno. 800 24 00 24, 349 238 6666. Marco mi dice: 14 anni, l'età della Vespa, e io con la Vespa ci impennavo di brutto. Sembra che ce li hai ancora 14 anni però, Marco. Una volta, anche passando da un posto di blocco, mi hanno fermato e io come scusa ho detto che avevo la ruota anteriore sgonfia. Francesco: 4 del mattino a 5 km da casa mia, limite 50 km all'ora, io a poco meno di 80. Dico: sto correndo a casa perché me la sto facendo addosso e non è la pipì. Il poliziotto: prego, vada pure. Ce n'era un'altra divertente. Vabbè, Ennio, spero, lo leggevamo prima insieme a Tiziano Bonini. Io mi sono inginocchiato e gli ho lucidato gli stivali. Ennio, spero che non sia veramente, spero che non sia così. Però anche questa cosa pensavo, che visto che ognuno di noi ha almeno in repertorio, come un vero ottimo attore, almeno due storie che ha raccontato alle forze dell'ordine per evitare un verbale, immaginatevi le forze dell'ordine quante ne hanno sentite. Cioè, i poliziotti che sono all'ascolto, i carabinieri, ripeto, i vigili urbani, tutti quelli che fanno le pattuglie, guardie di finanza, c'è qualcun altro? No, basta, questi più o meno. Bonini fa un gesto tipo la pesca, vigili del fuoco non fanno i posti di blocco. Bonini, dove abiti? A Foligno forse fanno i posti di blocco. Di qua no, sono poliziotti, carabinieri, insomma, ne avranno sentite, no? Perché di fatto loro in quel caso sono gli spettatori. Il numero è sempre quello: 800 24 00 24, 349 238 6666. Se siete in servizio credo non possiate telefonare, perché le volte che avete mandato un messaggio ed eravate in servizio non l'avete fatto. Però magari non siete in servizio, magari siete in pensione. Il numero è sempre quello. Vi leggo l'ultima di Silvio, che dice: io ho simulato una chiamata a mia madre che si è sentita improvvisamente male e necessitava di essere portata al pronto soccorso d'urgenza. È filato tutto liscio. Bene, se quella di Silvio vi sembra grossa, sentitevi la mia. Mi sono rivisto tutti gli episodi di Magnum PI. Me li sono goduti come se avessi avuto 8 anni e fossi stato a casa da scuola con 37,8 di febbre e mi stessi mangiando le pai d'oro, guardandomi sto tizio coi baffoni che girava per le Hawaii in Ferrari. Il problema però è che non credo che guardare Magnum PI sia una buona lezione per imparare tutto sull'investigazione. Anzi, si impara tutto tranne proprio quello. Tipo, impari a fare il maggiordomo, a chiamare i Doberman con un fischio. Impari pure a gestire il Kinkamehameha Club, ma su come scoprire dettagli della vita privata di uno sconosciuto, praticamente nulla. Ve lo dicevo, ieri ho fatto una cosa che un po' mi imbarazza raccontare, però l'ho fatta, quindi è inutile che faccia finta di nulla. Ieri mi sono appostato sotto casa di Italo e l'ho pedinato. Certo, girare con la Ferrari per le strade di Honolulu non è come fare il pedinamento per le vie di Milano con un'utilitaria, però in fondo sempre un pedinamento è. Dunque Italo è uscito di casa verso le 5 del pomeriggio, è salito sulla sua macchina e si è diretto verso la zona sud della città. Dopo 20 minuti in auto, in cui ho rischiato di perderlo un paio di volte, finalmente è arrivato a destinazione. Accostato al marciapiede nel posto giallo per gli handicappati, ha parcheggiato ed è sceso dall'auto. Era vestito con un cappotto scuro e delle scarpe di cuoio. Ha preso una borsa sportiva e si è infilato in un edificio di mattoni e vetro. Io l'ho lasciato entrare. Poi sono sceso dall'auto, senza dare nell'occhio. Anche se non saprei esattamente cosa significhi non dare nell'occhio scendendo da un'auto. Comunque ci ho provato e mi sono avvicinato all'ingresso. Sul vetro c'era la foto di un uomo e di una donna muscolosissimi, sorridenti. Sopra una parola inglese e sotto la scritta «La palestra della tua città». Due tizi eleganti con le facce abbronzate e i borsoni mi sono passati sulla destra e sono entrati in palestra. Ecco lì ho iniziato tutta una serie di riflessioni su quelli che vanno in palestra. Sul fatto che io in palestra non ci sono mai andato, che mi sembra una roba da imbecilli, che solo se hai un ego smodato o se pensi che avere un fisico scolpito sia fondamentale per la tua vita, tu possa annoiarti a morte facendo esercizi ripetitivi per ore e ore. Ho riflettuto sul fatto che magari Italo è talmente scemo da essersi preso un personal trainer, quei tizi che stanno lì e ti motivano dicendoti che devi aumentarti i carichi oppure fare lavoro sulla massa, sul peso, roba che se cerchi in internet dopo 30 secondi hai trovato una tabella di allenamento adatta a te. Però lì ovviamente ci vuole forza d'animo, ci vuole motivazione, ed ecco perché Italo si è preso un personal trainer, perché non ha né l'una né l'altra cosa. Italo è uno smidollato che ha bisogno di un sergente dei Marine che stia lì di fianco a lui mentre è sulla panca e non riesce a sollevare manco 10 kg di bilanciere. Ecco, per fortuna poi ho fatto un respiro profondo e mi sono calmato. Mi sono reso conto che la palestra e i personal trainer non c'entravano proprio niente con la mia rabbia. C'entrava solo che avevo perso la testa per una donna che stava con un tizio che si chiamava Italo e che andava in palestra. Ma se fosse chiamato Fabrizio e fosse andato in miniera, avrei detestato lui e tutti i minatori. Quindi sono tornato in macchina e ho pensato a qualcuno da chiamare al telefono per far passare un po' il tempo e magari anche a confessare quello che stavo facendo, che un po' mi pesava. Il problema però è che tutti gli amici mi avrebbero biasimato, ovviamente. Quindi ho cercato di immaginare uno che conoscevo però non troppo, con cui poter liberamente parlare senza sentirmi troppo giudicato. E non so come, ma mi è venuto in mente Aldo, l'ex fidanzato di Simona, non so se ve lo ricordate, che in fondo, quando l'avevo chiamato in quell'occasione lì, mi aveva chiarito le idee. Pronto? Pronto Aldo? Sì. Ciao, sono Matteo Caccia, ti ricordi? Sono l'amico di Simona. Ah, ehi, ciao, senti, scusa se ti disturbo. Guarda, lo so, che sembra assurdo. È che ho semplicemente bisogno di raccontare a qualcuno quello che sto facendo. E non so come, ma mi sei venuto in mente tu. Stai bruciando dei maglioni di cashmere. No, guarda, quello ci pensa di solito Simona. No, è che praticamente sto pedinando una persona. Ah, e perché? Perché voglio scoprire se sto tizio qua c'ha delle robe da nascondere, quindi lo sto seguendo. Guarda che tutti hanno qualcosa da nascondere, solo che certi lo nascondono meglio e altri meno, ecco. Dici, Ma chi è? Ma praticamente lui è il fidanzato della ragazza di cui sono innamorato, quindi ti fa capire più o meno. Vabbè, scusa, però se non c'è niente da nascondere, inventatelo tu, no? In che senso, scusa? Nel senso che un pesce non cerca l'amo, ma se glielo nascondi dietro a una esca, prima o poi abbocca. Aldo, sei un genio, sai? Devo dire altro? No, guarda, direi che sei stato molto chiaro, Aldo. Ti ringrazio molto, senti, ti lascio. Figura, chiamami quando vuoi, che con te mi sento veramente un genio, per cui chiama, che mi fa piacere. Aldo, grazie, ciao. Ciao. Do you remember? Summer as independence. Do you remember? Do you remember? All our summer as independence. Do you remember? Do you remember? All our summer as independence. Do you remember? Do you remember? E dopo due ore di appostamento, Italo esce. Io mi lancio all'inseguimento, anche se lancio forse effettivamente è un termine un po' troppo grosso. Comunque inizio a seguirlo. Mentre lo seguo a distanza di sicurezza, ricevo un SMS. Ciao Matteo, che fai questa sera a Natalì? Inizio a rispondere mentre guido. E non provatelo a fare a casa, che non si fa. E soprattutto, se vi fermano i vigili urbani, è finita. E se vi capita come è capitato a me, i vigili urbani vi fermano. Vedo la paletta un attimo dopo che ho alzato la testa dal display del cellulare, accosto e inizia la scena. Documenti? Ma come quali? Forza, non mi prenda in giro. Aiaiaia, ma qui non abbiamo fatto la revisione del veicolo. Mi sa che qui bisogna fare il verbale, C'è il ritiro della patente e sequestro del mezzo. Oh, non mi racconti scuse, forza. E allora deve parlarne con chi gliel'ha venduta la macchina. Senta, se continua così la porto in caserma, E intanto Italo mi sta scappando. La sua auto si è già persa nel traffico e io devo trovare un modo per schiodarmi da questo tizio in divisa con il cappello bianco e la faccia rubizza. E improvvisamente mi ricordo che con la storia della verità ormai ho chiuso e realizzo che le vie della fantasia sono infinite. E come se niente fosse, attacco con una manfrina che non so nemmeno da dove arrivi, ma parte. E appena parte non è più una manfrina, è la verità. La sto raccontando e ci credo. Che sono di fretta perché mia moglie è incinta. Sto correndo all'ospedale, le si sono rotte le acque e non posso non vedere nascere mio figlio. Sa com'è, la prego, tenente, guardi, non sono tenente, ma lei non ce l'ha un figlio. Sì, ne ho due, però allora mi può capire, no? Sì, ho capito, ma lei ha infranto la legge. Mi dica, come si chiamano i suoi figli? Gianni il grande e Maria la piccola. Guardi, tenente, se mi lascia andare il mio lo chiamo Gian Maria. Per piacere, non mi dica stupidaggine, lo giuro che è vero. Sì, ho capito, chi me l'assicura però a me che sua moglie sta veramente partorendo? Ero al telefono con lei prima. Aspetti, faccio una cosa, la chiamo e glielo dimostro. Non so come mi sia venuta sta storia del parto, la storia della moglie o del telefono. So che però mi sono messo a digitare a caso dei tasti sul cellulare, fingendo di chiamare qualcuno senza chiaramente chiamare nessuno, sperando che lui non se ne accorgesse. Però secondo me non se ne accorgeva, perché se ne stava lì a guardarmi, con la faccia imbambolata, come se aspettasse anche lui una buona notizia. E quindi, arrivato a quel punto lì, io non potevo fare altro che fingere di dargliela sta buona notizia. Ho portato all'orecchio il telefono e anche se dall'altra parte manco squillava e nessuno mi avrebbe mai risposto, io sono andato fino in fondo. Pronto, amore? Ciao, che succede? Marco, è già nato? Oddio, quanto pesa? No, ma così tanto? Guarda, amore, sto arrivando. No, no, non sono in ritardo, è che mi ha firmato un signor vigile, perché prima stavo parlando al telefono con te. No, dai, amore, per piacere, non posso passartelo. Dai, guarda, sto arrivando. Senti, volevo dirti una cosa. Cosa ne pensi del nome Gianmaria? Sì, lo so che ti piaceva Claudio, però già... Bello, no? Va bene. Ok, un bacio. Ciao, amore mio, arrivo. Ciao. Mi sono infilato il cellulare in tasca. Ho guardato il vigile. Ho pensato che se avesse capito tutto, mi avrebbe come minimo arrestato. Invece mi ha restituito i documenti, mi ha battuto una pacca sulla spalla e mi ha detto: vada pure. Auguri alla signora e pure a Gianmaria. I was calling you to find some codeine. Here's hoping you know what I mean. I was born and I cry. I live the dirty life and I died on fire. And so slow, but I could get used to this. Sono le 16.26, questa è Radio 24, è solo il 10 di dicembre, anche se diciamo dal pezzo di oggi sembrava il 25 di dicembre più che altro. Visto che molti spesso li chiedono, ricordo, i brani che noi mandiamo in onda, che seleziona Tiziano Bonini, li trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Io Sono Qui. Molto facile, radio24.it, cercate Io Sono Qui, credo nell'elenco, comunque nella home page qualcosa si trova. Fermato dai carabinieri con un mio amico con la faccia da tossico, ma che tossico non era. Ha dovuto mostrare le braccia e siccome aveva appena donato il sangue, aveva un bel buco, per assurdo si è dovuto inventare di essere veramente un tossico per essere lasciato andare al CERT a prendere il metadone, perché tanti carabinieri non avrebbero mai creduto che era un donatore di sangue e non un drogato. Limite di velocità 50 km all'ora, sfreccio accanto al posto di blocco, ben nascosto 100 metri per rallentare, mi infilo la cintura, metto la retro e torno indietro. Abbasso il finestrino e comincio: scusa, sono in ritardo per l'aeroporto. Il gendarme mi guarda e mi fa: dai, vai, è il tuo giorno fortunato. Che poi pure loro le usano le scuse. Io conoscevo la fidanzata di un amico che era poliziotto, che ogni volta che la fermavano diceva: guardi, ha proprio ragione, anch'io quando fermo dei colleghi mi comporto come lei. E questi la lasciavano sempre andare senza nemmeno chiedere il tesserino. Quindi, se siete dei poliziotti o dei carabinieri e volete dirmi quelle che avete sentito, ma anche e soprattutto quelle che avete inventato. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Oggi non siamo in una foto, oggi siamo in un video addirittura. C'è una sequenza intera, quindi che potrebbe essere un insieme di foto, che ci racconta l'Io Sono Qui di oggi. È Francesca che ce lo manda. Ci sono degli stivali rossi sul limitare di un marciapiede, direi, che sembra un marciapiede, però c'è dell'acqua in strada. Quindi forse è un canale, però no, perché si vede il fondo, è come una grande pozzanghera. L'inquadratura indugia un po' sugli stivali rossi, che evidentemente sono i suoi, poi si alza e si vede il riflesso. Chiunque, anche se non è stato in quella città, sa che riflesso è quello che si vede. È un campanile alto, arancione, con la punta bianca. Poi si gira e abbiamo anche la faccia di Francesca. Oggi è il 3 dicembre 2010, codice rosso di marea eccezionale, 140 alle 9. Questi sono i miei piedi e se faccio un altro passo vado sott'acqua. Questa è Venezia, questo è San Marco. Io sono la Checca e io sono qui. Questa di Francesca non è una cattiva idea, quella di mandare un video al posto di una foto. Lei andate a vederlo il video, è sulla pagina di Io Sono Qui, sempre sul sito di Radio 24. Lei ha fatto una soggettiva prima dell'acqua al limitare dei suoi piedi, poi di San Marco e poi si è inquadrata da sola. Una volta invece un ascoltatore mi ha mandato un video, potremmo mandarlo anche quello, in cui lui fa un 360 gradi intorno a sé e ci fa vedere esattamente dov'è attraverso quello che c'è intorno a lui. Vabbè, Beh, l'indirizzo è sempre quello. Io sono qui, chiocciolaradio24.it. Oppure potete passare attraverso il profilo Facebook, che è Matteo Caccia, io sono qui. Vedi che io lo dicevo, che usano delle scuse anche loro. Mio cognato, no, eccolo qua, con i carabinieri di solito controllo se hanno le spille che ricordano la partecipazione a missione all'estero. Se quello che mi ferma ne ha una, gli dico che anch'io ho partecipato ad una missione e sposto il discorso, lì. E di solito funziona. Invece un metodo è, mio cognato quando lo fermano dice sempre di fargli pure la multa, perché anche lui la faceva sempre quando faceva il poliziotto o il carabiniere o il vigile urbano, a seconda di chi lo ferma. Non gliela fanno mai. Daniele da Spino d'Adda. Andiamo però da Silvano, che ci ha mandato questo SMS. Ciao Matteo, faccio il vigile ad uno... ad uno che me l'ha raccontata una come la tua, mi sono offerto di scortarlo immaginando che mi stesse prendendo in giro. Alla missione di colpa verbale mi ha stretto una stretta di mano per la fantasia. Pronto Silvano? Sì, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, bene. Senti, sto giusto a lavorare. In questo momento? Ma che turni avete? Sì. Che turni avete, Silvano? E noi lavoriamo a Milano, lavoriamo H24. Ma quindi sei un vigile, sei un vigile di Milano? Sì, sì. Ma esatto. Ghisa non è offensivo, vero? È semplicemente identificativo? No, è un nome identificativo, è vecchio come il corpo, insomma. Che è arrivata dove esattamente? Ma la leggenda racconta che i primi vigili urbani che sono entrati in servizio avevano un cappello a cilindro, un cappotto svasato così, e richiamavano un po' nel popolo milanese la stufa di Ghisa, insomma il camion del Ghisa. Questa è la leggenda ufficiale. Ok. Senti, tu sei andato a lavoro, sei in macchina e ovviamente hai l'auricolare, manco a dirlo. Naturalmente. Senti, che cosa fai oggi? Che tipo di lavoro fai tu di solito? Io sono un commissario. Quindi sono su in praticamente gestisco il servizio. Non stai di pattuglia? Faccio anche quello, cioè nei vari compiti, comunque ho 20 anni che faccio questo lavoro, ho fatto anche l'agente, ho fatto anche il carabiniere, per cui insomma me ne sono passati solo tanti. Senti, tu hai raccontato, ne hai raccontata qualcuna quando ti hanno fermato dei colleghi o dei carabinieri? No, quando mi fermano, non, di solito non mi qualifico, gli do i documenti, gli faccio fare il loro lavoro. Non mi è mai successo comunque. Cioè, non è mai... sono aperto per controlli, ecco, così. Cioè, non... tu vuoi farmi credere che 20 anni di servizio, mi hai detto, Silvano? Sì. In 20 anni di servizio non hai mai preso una multa? In Germania. In Germania per cosa? In Germania perché avevo sorpassato, secondo loro, in un punto che era pericoloso. Poi c'era doppia linea continua. Io mi sono detto, ma perché secondo loro era pericoloso, perché mi veniva un mezzo incontro. Loro non mi avevano visto, ma mi hanno detto che era stato un autista di un autobus che avevo superato, che aveva telefonato loro raccontandogli la cosa. Anche io gli ho spiegato a questo punto, l'autista dell'autobus, mi sono qualificato, gli ho detto che anch'io lavoravo, facevo attività di polizia stradale, sì. Gli ho detto che l'autista dell'autobus a sua volta si era comportato in modo pericoloso, grande, perché aveva accelerato anziché rallentare per permettergli sul passo, per cui sono andato a fargli la multa anche a lui. Ah, perfetto, però almeno siete in due. Senti Silvano, ti lascio andare a lavorare, solo una cosa, oggi è un delirio a Milano per via dello sciopero dei mezzi. Sì, adesso io poi non abito a Milano città, sto andandoci adesso, comunque l'ho letto su internet. Ma in questo caso voi avete delle attività particolari oppure... sbattiamo fuori tutti, anche quelli che sono in ufficio, li sbattiamo fuori tutti per strada a cercare di fare il possibile. Li sbattiamo fuori, mi piace. Silvano, grazie mille per la telefonata. Ciao, buona giornata. Andiamo a Roma da Gianluca, che è un agente della Polizia Stradale. Pronto? Ciao, buonasera. Ciao Gianluca, sei in servizio o no? No. Quando entri in servizio? No, sono in ferie per qualche giorno, quindi se ne riparla per qualche giorno. Tu lavori su Roma comunque? Adesso sì, fino a qualche anno fa no, ho lavorato fuori in autostrada comunque, insomma, polizia autostradale. E tu guidi le auto oppure stai solo di fianco? Guido anche, adesso sono capo pattuglia, sono accanto, ma insomma sì, comunque sì. Dovete fare un corso particolare per guidare con le macchine? Facciamo la scuola di polizia stradale, la polizia stradale è una specialità della polizia di Stato. Chiaro, eh? E si fa una scuola a Cesena, dove appunto si consegue, diciamo, una sorta di patente che serve per la guida veloce. Ma c'è un circuito in cui provate, in cui fate delle... Sì, beh, cioè all'interno della scuola ci sono, insomma, diciamo, ci sono degli ampi piazzali dove ci sono i birilli, insomma, capito. Le prove, poi si va anche, noi in particolare andammo anche a Milano per fare dei corsi di guida, eccetera. Senti Gianluca, raccontamene una, dai, raccontamene una che te ne ha raccontato. La più bella stato un signore. Noi tornavamo macchina di istituto, quindi con colori di istituto, lampeggianti spenti. Cosa vuol dire macchina di istituto, scusami? E i colori di istituto sono le auto della polizia bianche e blu, quelle che tutti vediamo. Ah, okay, poi ci sono le auto civetta, insomma, in borghese, che non hanno colori di istituto. Ok, quindi auto della polizia ufficiale. Sì, auto con le scritte polizia e tutto quanto, sì, come vedi di solito, sì, lampeggianti spenti. Si tornava appunto dal servizio. E notte in città, semaforo rosso, e davanti a noi avevamo un'auto. Noi ci fermiamo dietro. A un certo punto questo guarda a destra e a sinistra e gira con il rosso, come se nulla fosse. Non passava nessuno, però noi chiaramente, insomma, il semaforo è rosso. Andiamo dietro, sì, lo fermiamo, lo facciamo accostare, scendo, vado da questo signore, gli faccio buonasera, dico, ma il semaforo non l'ha visto che era rosso? Lui mi guarda serio, mi fa, dice, sì sì, il semaforo l'avevo visto, era voi che non l'avevo visto, Matteo. Cosa avete fatto? E a quel punto abbiamo fatto un controllo, patente, libretto, insomma, era tutto a posto e alla fine fammi chiamato per nome, ha detto, vai. L'hai fatto andare, fammi una percentuale, nei casi in cui, diciamo, come si chiama, la contravvenzione grave o non sia rischiosa come questa, in percentuale quante volte lasciate andare? Ma guarda, allora lì si applica il buon senso. Allora, noi applichiamo la legge e io in particolare e molti miei colleghi cerchiamo di applicare anche il buon senso. Quindi, bravo. Un'ultima cosa, Gianluca, caso, scusami, questa è un'altra cosa, sì, che ti devo chiedere. È in percentuale, quante uomini e quante donne lasciate andare? No, io non mi faccio influenzare. No, bravo. Bravo, Gianluca. Anzi. Quando vedo che ci provano? No, mi incattivisco, perché comunque non siamo stupidi, cioè alla fine... Anche a me capitavo di essere stato fermato dai colleghi. E hai fatto gli occhi dolci. E cosa hai detto? No, e niente, mi sono costituito, come ho detto io. Parte civile. Ho sorpassato, ero in moto, linea continua, ho sorpassato un'ape. Vabbè. Erano i miei colleghi, ho accostato, mi ha detto, che fa? Si costituisce? Dico sì, l'ho fatta grossa. Gianluca, grazie mille, buona giornata. Anche a te. Ciao, alla prossima. Ciao. Prima è arrivato un SMS di Sara che dice, anch'io ho inseguito la moglie del mio amico e mi hanno fermato i carabinieri. Pronto, Sara? Ciao, raccontami com'è finita, ti hanno fermato? Mi hanno fermato, sì. Eri senza cintura? Uscivo da una galleria e c'era un rettilineo e tenevo d'occhio, avevo qualche macchina davanti. C'era la pattuglia dei carabinieri, mi hanno fermato e credo di avergli fatto un po' di tenerezza, perché io ero spiazzata, non sapevo che cosa dire, verità o bugia, ma in quel momento ti si annebbia la... E cosa gli hai detto? La verità. Ma e tu perché stavi seguendo la moglie di un tuo amico? Perché mi piaceva l'amico. Ah, tu la stavi proprio pedinando? No, pedinando passava vicino a dove ero io. Certo, ed è un altro modo per dire che la stavi... Io ho preso la macchina al volo e l'ho inseguita, perché volevo sapere... Se aveva qualcosa da nascondere. Sì, anche, ma che abitudini aveva, chi era, cosa faceva, come mai era in giro la sera, la pensavo a casa. No? Senti, e cosa hai scoperto? Niente hai scoperto. Niente, perché i carabinieri mi hanno lasciato andare dopo, ma io ho perso lei, anche perché le strade dove abito io c'è una strada sola, non ci sono, è una strada che costeggia un lago e di conseguenza non ci sono strade laterali e quindi lei sarà andata dritta. Vabbè, immagino. So, senti, con l'amico com'è finita? Niente? No, niente. Era una cosa che non poteva neanche, però sai quei colpi di follia. Certo. Pronti via, mi metto a pedinare una. Sara, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima, grazie mille. Siamo arrivati a un punto in cui è arrivato il momento di fare un piccolo riassunto di questa storia, visto che molti mi dicono, ah, ci siamo persi delle puntate, oddio il podcast sta per arrivare, non vi preoccupate. Il riassunto è presto fatto. Tempo fa trovo una scatola in casa mia, ci trovo delle lettere e delle foto, vado a cercare chi sono i destinatari e chi sono i mittenti di queste foto e di queste lettere. Trovo una coppia di persone anziane che stanno insieme, che hanno avuto una figlia, hanno avuto più figli, hanno creato una famiglia e hanno una nipote. Mi innamoro della nipote, la nipote si chiama Nathalie e sta con Italo. E il resto sono qui. Questo più o meno è il riassunto della storia. Andate a cercarla se volete sul sito di Radio 24, andate a cercarla anche sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Grazie a tutti quelli che scrivono, grazie anche a Tiziano Bonini, a Roberto Scaltritti, a Vittoria Mussini. Lunedì non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?